nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. L'altra domenica di Radio 24 che, come sapete, ci vede sempre lì a cercare di smontare almeno un po' uno dei miti che ci hanno perseguitato in questi ultimi anni, il mito del multitasking, del fare tante cose insieme, la più grande fregatura che sia stata inventata contro le donne. Poi certo abbiamo anche una battaglia laterale che è quella contro i colleghi tossici, toxic worker, quelli magari che sono anche bravi ma sono così acidi, invidiosi e incapaci di fare squadra che ci rendono impossibile il vivere insieme in luoghi di lavoro. Lo studio del Harvard Business School ha puntato proprio il dito contro questo tipo di difficoltà. Ma ormai lo sapete, a Nessuna è Perfetta da settimane. Vogliamo anche ricordare quello che è successo a Colonia nell'ultima notte dell'anno. Ormai manca poco al 4 di febbraio, il primo giorno del carnevale di Colonia, il giorno in cui virtualmente saremo tutte a Colonia, io ci sarò anche fisicamente e magari poi vi racconterò quel che ho visto, ci sarò insieme ad altre donne, ma quest'oggi ne parliamo anche con la nostra Sunday Girl e non vi dico di più. Ma prima di parlare di lavoro, di problemi di lavoro, come sempre, vorrei accennarvi soltanto, darvi un indizio su chi sarà il nostro agente provocatore di questa domenica. È uno che in questi giorni al cinema si sta molto dedicando al rapporto uomini-donne. E allora benvenuto al nostro agente provocatore di questa domenica, Vincenzo Salemme. Buona domenica, Vincenzo. Buona domenica a voi. Allora, io non ho capito, ma possibile che dopo tutte le cose che ci siamo raccontati sul fatto che ormai sono le donne che dominano i rapporti e che il maschio è il sesso debole, adesso con Se mi lasci non vale, il film che è dal 21 gennaio nelle sale cinematografiche, torniamo a riproporre diciamo la dimensione del maschio che si vendica e con astuzia alla meglio sulla donna che l'ha lasciato. Non voglio raccontare tutta la trama, voglio sapere da Vincenzo Salemme che cosa pensa del rapporto uomo-donna. Ma io una volta, un paio d'anni fa, ho fatto uno spettacolo in cui facevo un monologo appunto sulle differenze e dicevo appunto che siamo universi paralleli, siamo diversi, e questo bisogna rivendicare il diritto alla diversità dei due sessi. Abbiamo fatto battaglie sacrosante per il diritto all'eguaglianza, dobbiamo fare battaglie altrettanto giuste per il diritto alla diversità. Ed è bello, ci dobbiamo amare proprio perché siamo diversi, due mondi, due universi paralleli. Ma è vero che il maschio si sente un po' sopraffatto dalla sicurezza di queste nuove donne che hanno o sembrano avere tutto? Ma io devo dire la verità, secondo me i maschi, dico abbiamo sempre avuto un po' paura delle donne, non perché siano diventate adesso più giustamente più donne più attive o così via, ma perché la donna proprio ci fa paura, perché ha una sicurezza che noi non conosciamo, ma non conosceremo mai. La donna ha un legame con la terra, voi siete due in uno, potete essere tre in uno, noi possiamo solo immaginare tutto, abbiamo un'idea delle cose. La donna no, la donna ce l'ha dentro, è un po' come Platone che diceva che ci abbiamo già tutto, la donna è proprio così, è tutto un... Però è anche vero che voi spesso, non parlo ovviamente né del protagonista del film di Salemme né in generale di lui o di altri, ma molto spesso quello che si sente raccontare dalle trentenni, anche dalle quarantenni a dire la verità, è che il maschio oggi scappa, rifiuta di essere coinvolto seriamente, è un seduttore seriale, è un Peter Pan perenne. Ma io non so, a voi risulta che non siamo stati così nel già mille, sì, secondo me è sempre stato così. Il maschio tende sempre a non assumersi la responsabilità, io per responsabilità intendo la capacità di darsi in qualche modo a qualcun altro. È complesso, noi nasciamo, penso che l'essere umano in generale nasca egoista, l'altruismo è una scelta, per cui per noi è più complicato, voi donne siete più propense, perché ripeto, mettendo al mondo un bambino è inevitabilmente siete portate all'altruismo, poi potete essere possessive, ma altri mille difetti, ma questo qui no, questo è un difetto di cui abbiamo la prerogativa, ma sarà, non ripeto, anche, nasciamo così. Sarà anche che voi maschietti, ripeto, non voglio generalizzare, non voglio dire no, voi, certo, però certo. Insomma, i maschietti sono un po' anche come il protagonista di Sogni e bisogni, incubi e risvegli, cioè la commedia che Vincenzo sì. Salemme ha già interpretato e che torna al Manzoni di Milano, no, ha fatto l'ultima tappa al Manzoni di Milano, sì, e poi sì. Adesso ricominci a marzo. Questo protagonista ha un, diciamo, un solo obiettivo fisso, che è quello di interloquire con il suo altro io, che sta un pochino più in basso. Lui lo chiama il tronchetto della felicità. Ma in realtà è lui stesso, è l'inquilino del piano di sotto che vuole essere chiamato così, non vuole essere chiamato con quegli orrendi vezzeggiativi. Dice: io voglio essere chiamato tronchetto della felicità, ed è lui che vuole parlare al suo ex titolare. È lui, il tronchetto, perché che ha lasciato il suo ex padrone, chiamiamolo sì. Così, perché non si sente più al centro delle sue attenzione, cioè lui dice, il tronchetto dice, che gli esseri maschi ormai non si può più desiderare, e quindi noi abbiamo perso la sensualità della vita. Gli dice: voi cercate da millenni di dare un senso alla vita, quando ne avete 5 di sensi principali, tra l'altro che poi ci sono dei sottosensi, ma 5 sensi, e non ne utilizzate uno fino in fondo. Noi non sappiamo più guardare, non sappiamo ascoltare, non sappiamo più accarezzare, annusare, assaporare, e questa è la vita. Siamo soltanto, dice forse il tronchetto, portarci a letto una ragazza per una notte? No, dice, voi pensate che a noi tronchetti interessa il sesso, ci piace il sesso, ma in assenza di sensualità il sesso a noi non piace, e la sensualità si nasconde in mille anfratti della vita, non è la sensualità, non è necessariamente quella donna, quel maschio che hanno quelle forme, la sensualità si nasconde dietro uno sguardo, è qualcosa di chimico che noi non possiamo cogliere se non mettiamo in moto i sensi, e per mettere in moto i sensi bisogna desiderare, bisogna la vita, bisogna volerla vivere fondamentalmente. Noi invece continuamente, ma non solo i maschi, pure le donne, secondo me scappiamo dalla vita un po' tutta l'umanità, siamo talmente spaventati che proprio io in questo senso generalizzerei, credo che l'umanità da questo punto di vista stia vivendo un momento difficile, perché è molto molto spaventata, e non soltanto per il fatto delle violenze, ma per la violenza che si nasconde dietro ogni frase arrogante, ogni gesto arrogante. Non, ecco, è recuperare allora appunto il fascino del parlarsi guardandosi negli occhi tra uomo e donna, assolutamente, è domenica mattina, forse farebbe anche bene se le coppie ci stanno ascoltando. Però la crisi del maschio cinquantenne, del protagonista di Sogni e bisogni, incubi e risvegli, che rivedremo a teatro a marzo, è un po' la crisi generalizzata di un maschio cinquantenne globale che appunto ha avuto una fase un po' difficile. Come si risolve la crisi del maschio cinquantenne? Prima c'era la crisi dei 40 anni, adesso si è spostata di 10 anni. Ma sai, il maschio cinquantenne si sente in crisi, credo, perché ci sentiamo in crisi perché il mondo negli ultimi 40 anni è cambiato come se ne fossero passati 500. Noi stiamo sottovalutando il cambiamento della comunicazione. La comunicazione ha totalmente stravolto il nostro modo di essere umani, perché noi parliamo ormai quasi esclusivamente attraverso gli schermi, tablet, e questo significa che lo schermo è piatto geometricamente, ma è piatto anche perché non suda. Si può corteggiare una donna così? Si può farla innamorare? Questo è il problema. Puoi farla innamorare via SMS. Ma secondo me lo fanno perché, ripeto, siamo talmente spaventati che preferiamo far vedere di noi soltanto le parole che riusciamo a scrivere con una tastiera, ma non è così che ti puoi innamorare. Innamorare è fatto di odori, di sapori, di comunione di sguardi, ma troppe cose, ma un miliardo di cose. Noi poi le semplifichiamo con ascoltare, parlare, ma miliardi. C'era un libro bellissimo che parlava proprio del come si chiama, non il genoma, ma il psiconoma, cioè il DNA delle cose chimiche, no? Delle cose psicochimiche. Sono miliardi. Lei fa così con la voce, dice questa voce, e magari è una voce che a chi ascolta in quel momento dà una certa sensazione. Con le parole di un tablet, ma è impossibile comunicare veramente, ma tanti hanno una delusione fortissima quando poi si incontrano, no? Quindi siccome appunto noi sosteniamo la nostra solitaria battaglia contro il multitasking, e nel multitasking spesso rientra il fatto di parlare al telefono col proprio fidanzato, marito, amante, partner, mentre stiamo mandando via mail qualcosa in ufficio, almeno la domenica Vincenzo Salem suggerisce di parlarsi guardandosi negli occhi. Ma si rende conto che noi viviamo almeno 50 anni di media di più rispetto agli ultimi a 100 anni fa? Ma ne viviamo come se ne vivessimo 50 di meno, e allucinate, abbiamo meno tempo. Ma come dice, uno deve fare, mandare un documento e nello stesso tempo parlare con la fidanzata al telefono? Ma come, prima si faceva una cosa per volta e si viveva fino a 60 anni, se andava bene 70, ora si dice che si viverà fino a 150 anni e viviamo come se ne campassimo 30. Ma che vita è sbagliato, diciamolo per primi a noi stessi, perché appunto tutti noi siamo un po' vittime del multitasking. L'importante però è rendersene conto e utilizzarlo, ecco, utilizzarlo e non esserne utilizzati. Bene, grazie Vincenzo Salem per essere stato questa domenica con noi. La domenica è un giorno da film e ovviamente io me lo andrei a vedere, se mi lasci non vale. Buona grazie, domenica. Grazie, buona domenica a te e a voi tutti. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno. Beh, con Vincenzo Salem abbiamo parlato di rapporti tra uomini e donne segnati da una cifra che è quella della sensualità, dell'affettività, dell'amore. Adesso parliamo dei rapporti tra uomini e donne segnati purtroppo da tutt'altra cifra. Voi lo sapete, ne parliamo da tante domeniche. Consideriamo importante non rimuovere quello che è successo a Colonia, perché quel 31 dicembre, con le molestie di massa alle donne che stavano festeggiando tranquillamente il loro capodanno, segna uno spartiacque, un prima e un dopo, e costringe a fare delle riflessioni molto serie, riflessioni che noi vogliamo fare questa domenica con la nostra Sunday Girl. Buona domenica Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato. Buona domenica. Buona domenica a voi. Cerchiamo di capire perché è importante inquadrare quello che è successo a Colonia nella dimensione più ampia e più serena possibile dei rapporti uomo-donna, che sono la chiave per una immigrazione, una convivenza, un'integrazione di successo. Intanto la prima cosa che non dobbiamo fare, come veniva detto, è rimuovere ciò che è accaduto. Non è un episodio come tanti altri. Poi tra l'altro stanno ancora verificando, perché stiamo parlando di quello che è successo il 31 di dicembre a Colonia, ma ci sono state in contemporanea, negli stessi momenti, negli stessi giorni, altre simili aggressioni in altri paesi. Quindi la prima cosa che dobbiamo anche capire, organizzata, non è stata organizzata, come, perché, ma il fulcro di ciò che è avvenuto a Colonia è esattamente colpire, secondo me, il simbolo fondamentale delle libertà della donna, perché questo è quello che ha significato, secondo me, secondo tanti, ciò che è avvenuto a Colonia. E io sono persino convinta che va messo dentro ad un ragionamento per il quale è stata una scelta voluta, non è stato qualcuno che in una festa, ubriaco, si è lasciato andare. È stata proprio una cosa voluta di fronte a donne libere che camminavano, che festeggiavano, che si godevano l'ultimo dell'anno, attaccate esattamente perché donne libere di essere quello che sono. Ecco, non rimuovere vuol dire porsi il tema, non diciamo del buonismo tipico, sì, erano dei nordafricani, quindi attenzione, non parliamone perché sennò siamo... C'è cattivi. Questo aspetto, no, senatrice? C'è l'aspetto e si percepisce, lo dicono anche molte colleghe, molte osservatrici in Germania, si percepisce il forte imbarazzo di gestire una cosa così... Che tocca un nervo così sensibile come i diritti delle donne e la difficoltà di gestirla in contemporanea con il gravissimo problema dell'immigrazione. Ad esempio, mi si dice che in queste ore, in questi momenti, c'è una grande ansia per quello che succederà il 4 febbraio, il primo giorno del carnevale a Colonia, perché quella che dovrebbe essere, che ci auguriamo tutti, sia una grande festa, con la piazza di Colonia simbolicamente invasa da tutte le donne in termini molto festosi e molto sicuri di sé, così come è sempre stata una tradizione del carnevale di Colonia, ecco, c'è la tensione perché c'è paura che possa diventare qualche altra cosa. È difficile tenere insieme i diritti delle donne e un atteggiamento, diciamo, di sinistra che è sempre stato molto rispettoso anche dei diritti di tutti, degli immigrati, dei profughi. Diciamo che dopo un primo imbarazzo, su questo è giusto riconoscerlo, è onesto dirlo, c'è stato un attimo di silenzio su quei fatti proprio per quella ragione, poi però se ne è immediatamente ragionato. In che senso? Nel senso che noi non possiamo girare la testa dall'altra parte rispetto al fatto che una parte dell'immigrazione è di provenienza di paesi in cui la cultura, le regole, le leggi nel rapporto uomo-donna non contemplano la libertà e i diritti delle donne. Questo noi dobbiamo averlo chiaro, perché questo è il terreno su cui bisogna riflettere. Per dire, come alcuni hanno fatto, meno immigrazione non dobbiamo accettare. No, per dire che servono modalità di accoglienza che non si limitano solo agli aspetti fondamentali, certo, della ti accolgo, ti nutro, ti trovo un posto per dormire decente, decoroso, ma tu devi anche sapere che devi dare strumenti oltre alla lingua a queste persone. Se vuoi davvero l'integrazione, devi anche mettere nella condizione di conoscere, diciamola così, usi e costumi a partire del luogo in cui ti stai inserendo, a partire dalla cosa fondamentale, dalla più profonda libertà, che è la libertà delle donne. Peraltro ci sono tantissime convenzioni internazionali, quindi delle Nazioni Unite, che ti dicono su ogni terreno che se tu vuoi fare un'integrazione corretta e duratura, se vuoi anche ricostruire dopo periodi di crisi o di guerra, tu devi sapere che uno dei terreni fondamentali è costruire un rapporto diverso, nuovo, democratico, di rispetto dei diritti delle donne e delle loro libertà. Questo non è un caso, quello si dice, esattamente perché quello è un terreno fondamentale. Senatrice, c'è chi dice, e l'ha detto anche la sindaca di Colonia, che poi è stata subissata di critiche, beh, le donne imparino a tenersi a distanza dagli immigrati. C'è chi ha detto anche, beh, ma insomma, vestitevi in modo appropriato. C'è chi ha detto, ha fatto notare, e purtroppo mi corre l'obbligo di dirlo anche in alcuni articoli, che quella poveretta svedese di origine libanese che è stata uccisa da un quindicenne profugo in un raptus, non si capisce bene come sia potuto succedere, c'è chi ha detto, beh, ma quella era lì da sola di notte a gestire i profughi. Cioè, è naturale, è naturale avere queste reazioni? Cioè, sono le donne che devono cambiare il loro modo di approcciare? Assolutamente no. È invece profondamente sbagliato e crea di nuovo una situazione in cui le donne si devono sentire in colpa di essere libere. No, sono le altre persone che devono essere capaci di relazionarsi positivamente con la libertà delle donne, perché questo poi è il nodo. Io credo che la sindaca di Colonia abbia fatto uno scivolone terribile, forse, ecco. Così, emotivamente, ma a me non verrebbe mai in mente. Ecco, cioè, quindi significa, per esempio, che nel dibattito, immagino che ci sia Colonia, che c'è nel movimento delle donne tedesco, c'è chi pensa ancora che dobbiamo fare attenzione a che cosa? A che cosa? Infatti è impossibile. Quindi noi da un lato dobbiamo tenere conto del fatto che in qualche modo si tenta di mettere il silenziatore a quello che è successo, perché crea degli ovvi, evidenti problemi. Insomma, in Germania stanno affrontando la questione dell'immigrazione in un contesto politico molto, molto difficile, quindi da un lato c'è questo, ma dall'altro però c'è la consapevolezza di tutti noi. C'è stata una bellissima intervista della filosofa Badin Ter, anche questa settimana era su un settimanale francese, su Marianne. Per quanto riguarda l'Italia, adesso un gruppo spontaneo di italiane sarà il 4 a Colonia. Noi sappiamo di avere la senatrice Fedeli, come dire, virtualmente con noi, ma c'è stata anche una presa di posizione di solidarietà, credo, del presidente Grasso, del presidente del Senato. Assolutamente una cosa importante, perché adesso, per ragioni di aula, tenete conto che abbiamo proprio modificato il calendario d'aula, e quindi nella prima settimana di febbraio e nella seconda settimana di febbraio siamo tutti impegnati al Senato sulla discussione, e mi auguro la piena approvazione dell'Unione Civile. Però appena successo il fatto di Colonia, ma soprattutto appena lei ha lanciato l'idea di andiamo tutti a Colonia, che immediatamente ho raccolto, perché mi è sembrata una iniziativa la molto seria. La ringrazio. No, ma è un tema assolutamente vero, perché quello che è successo a Colonia ci riguarda, e quindi avevo chiesto sia al presidente Grasso, poi in rapporto con alcune deputate della Camera, loro lo hanno chiesto alla presidente Boldrini, di poter andare a Colonia per incontrare la sindaca, adesso, per quanto riguarda l'incontro istituzionale, andare a Colonia per incontrare la sindaca, i movimenti delle donne, le associazioni femministe, per ragionare insieme su che cosa è utile che noi valutiamo, approfondiamo, prendiamo in considerazione, per valutare meglio cosa significa l'immigrazione oggi e quel di più che dobbiamo immettere nell'immigrazione. Ecco, speriamo che ad aprile sarà possibile, ad aprile, a maggio, quando ci sarà la disponibilità della sindaca, si possa fare. Ecco, l'importante è non dimenticarlo. Non e il 4 febbraio noi saremo virtualmente con Valeria Fedeli a Colonia. Grazie, senatrice, e buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica a voi. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Insomma, abbiamo affrontato un tema mica da ridere con Valeria Fedeli, con la nostra Sunday Girl. Rapporti uomo-donna nel contesto di quello che è l'immigrazione, con un occhio appunto a Colonia. Colonia il 4 febbraio, il primo giorno del carnevale di Colonia, quello tradizionalmente appaltato alle donne. Io ci sarò e poi vi racconterò. Abbiamo parlato anche di uomini e donne in una cifra più lieve, un po' scanzonata, con Vincenzo Salemme. E però voi sapete che questo è il momento della cosa che ci rode un po' dentro sul lavoro, di quello che magari ci dà speranza ma ci turba anche un po' i sonni la notte. Di tutto questo, di tutto quello che vi preoccupa o vi stimola mentre siete al lavoro, potete scrivere e scrivere all'indirizzo mail di Nessuna è Perfetta, che lo sapete ormai, è nessunaeperfetta@radio24.it, e potete commentare quello che avete sentito prima, se siete d'accordo con Vincenzo Salemme, se sarete anche voi virtualmente con noi a Colonia il 4 febbraio, potete twittare usando l'hashtag Nessuna è Perfetta o potete scriverci sulla nostra pagina Facebook. E come sapete è il momento della lettera. La lettera di oggi viene da una ragazza, Ambra. Ho 29 anni e da circa 3 lavoro per un'importante azienda di consulenza finanziaria. Beata lei, dico io, tanti avrebbero voluto trovare posto, e è un posto bellissimo, a quanto pare, così giovane. Comunque, così scrive Ambra, l'impegno richiesto è notevole, ma considerata la mia età e la discreta retribuzione, non posso certo lamentarmi, appunto. Da qualche mese, però, sto prendendo in considerazione l'idea di fare un MBA in una importante business school straniera. Il problema è che dovrei lasciare il mio attuale lavoro e che i miei genitori, ai quali ho prospettato l'ipotesi, non sono per niente d'accordo. Sarebbe un salto nel buio, mi dicono. E poi la stima dei costi che dovrei affrontare un po' mi scoraggia. Secondo voi ne vale la pena? Un curriculum e un'alta specializzazione fa ancora la differenza? Ambra. Fare o no un corso, il mitico MBA, se negli anni 80 e anche negli anni 90 un Master in Business Administration era il fattore di successo, la svolta, oggi sembra un dato un po' meno certo, anzi, c'è quasi una corsa alla demolizione del programma per executive più famoso del mondo, tanto che perfino un'icona come Jack Welch ha dichiarato recentemente al Wall Street Journal, se te lo puoi permettere, se hai genitori ricchi, se vuoi spendere $300,000, beh, è un buon investimento, ma solo se ti puoi permettere di rinunciare appunto ai mancati guadagni per 2 anni e solo a patto che tu entri in una scuola top. Ecco, a proposito di scuole top, proprio in questi giorni il Financial Times, nella sua classifica annuale, ha premiato la SDA Bocconi, la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano, spingendola fino al 9° posto nella classifica dei migliori programmi di Master in Business Administration e nonché al 25° posto al mondo. La Bocconi ha preso uno slancio in più, ha salito un gradino in più rispetto allo scorso anno ed è l'unica italiana nella classifica dei 100 programmi top. In questa classifica il Financial Times mette al primo posto la francese INSEAD, la business school che ha sede in Francia e a Singapore, e poi in realtà sancisce il dominio americano nel settore. Infatti nelle prime 10 posizioni si trovano 7 istituti americani. Dopo l'INSEAD c'è la Harvard Business School, poi la London Business School, che è britannica come dice il nome, poi seguono Stanford, Columbia, Chicago, Berkeley e l'MIT. Cara Ambra, io certo ci penserei su, è un'occasione e se ne hai la possibilità non me la farei scappare, ma vorrei sentire su questo gli esperti di questa settimana, di questa domenica. Roberta Marracino, direttore dell'area studi e comunicazione di SACE, che ha responsabilità per studi economici e per la comunicazione interna ed esterna, e Fernando Napolitano, presidente e CEO di Italian Business and Investment Initiative. Bene, io comincerei subito da Roberta Marracino. Intanto, ma lei l'ha fatto un MBA? E in caso affermativo, è stato utile? Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e ciao Maria. Per rispondere subito alla tua domanda, io un MBA l'ho fatto parecchi anni fa, perché era il 1991, quindi devo dire che forse appartengo a quella generazione che è stata un po' un esperimento, almeno quella generazione, diciamo così, di studenti italiani. Rispondo con molta franchezza, mi è stato estremamente utile quella volta ed è stato fondamentale per me per riuscire a superare i colloqui di una grande società di consulenza in cui poi ho trascorso 16 anni. Diciamolo, McKinsey, ecco. Una grandissima società di consulenza. Diciamo, sì. Lo possiamo dire. Io l'ho detto spesso, l'ho detto anche a chi ha gestito il master a suo tempo con cui sono rimasta in contatto, se io non avessi avuto quell'esperienza lì, probabilmente non sarei riuscita a superare quei colloqui che sono Perché stati sette. Un master in business administration ti ha aiutato così tanto? Una cosa possiamo, la cosa più importante di questa esperienza. Allora, mi ha aiutato moltissimo perché ha complementato una competenza tecnica, diciamo, ha reso complementare una competenza tecnica che avevo acquisito all'università. Era comunque un'università, diciamo, periferica, perché io ho studiato a Trieste, quindi poco conosciuta nei contesti milanesi, per dire, quindi non è che si tratta di quelle università in cui normalmente si va a attingere per i talenti, che era legata ad un percorso di studi molto tradizionale. Quindi l'acquisizione di competenze tecniche, nello specifico finanza, l'elaborazione di alcuni case study di tipo strategico e di marketing, nonché la modalità di lavoro, che significa un periodo intensissimo, il master è durato un anno, noi eravamo in aula fino alle 6 di sera, ma poi si lavorava fino a mezzanotte sui compiti per casa, quindi la capacità di lavorare tempo. In team, ecco. Esatto, è stato fondamentale, questo è stato fondamentale. E naturalmente io ho la curiosità di sapere che cosa pensi dei master. Fernando Napolitano, buona domenica. Buona domenica a lei. Ecco, intanto quello che ci domandavamo è se un master fatto nel 1991, come Roberta Marracino ricordava rispetto al suo master, abbia lo stesso valore, la stessa efficacia oggi. Jack Welch dice fatelo, ma solo se potete rinunciare a $300,000, cioè quello che guadagnereste in due anni. E lei, Fernando Napolitano, cosa dice di un master? Allora, io sono ovviamente un sostenitore degli MBA e dei master, non fosse altro perché è conoscenza, quindi è approfondire la conoscenza, in questo caso la conoscenza del business. Ovviamente il presupposto è che non è che qualsiasi master va bene. Se noi dobbiamo parlare di probabilmente i radioascoltatori, un master per un italiano è consigliabile che venga fatta ovviamente negli Stati Uniti, sia per una questione ovviamente culturale, ma anche perché una immersione di due anni in quella mentalità fatta con quei metodi ha un valore tale che viene riconosciuto. Indipendentemente poi dalle opinioni, ci sono delle classifiche, in particolare quelle pubblicate da alcuni giornali molto importanti. Sì, abbiamo citato quella del Financial Times. Financial sì. Times, che ha una classifica dove semplicemente viene detto non solo il tasso di impiegabilità, che è il 99%, ma qual è il salto di stipendio che si fa tra prima e dopo. Quindi è la differenza di essere uno in un milione a passare a uno in 100 persone. Quindi c'è un rapporto, diciamo, investimento, ritorno, qualità, apprezzamento da parte del datore di lavoro, che è ancora, stando ai numeri, estremamente importante. Allora, Roberta Marracino, prima di fermarci per una breve pausa, che cosa potrebbe dire Ambra ai suoi genitori per convincerli? Allora, prima di convincere i genitori, credo che debba convincere se stessa, no? Vista la domanda che pone. E io francamente mi sento di sottoscrivere quello che ha detto Fernando, con una piccola osservazione che riguarda un po' il contesto in cui lei si vede tra 5 o 10 anni. Il master è un investimento che va fatto in un'ottica di medio-lungo termine e tenendo presente che c'è una parte di esperienza, diciamo così, umana, quindi imparare a lavorare in squadra, ed è un'esperienza totalizzante nell'acquisizione di competenze sia di tipo tecnico che di tipo, diciamo, soft. ma è anche un'esperienza che mette a frutto non immediatamente, anche dal punto di vista del riconoscimento retributivo e soprattutto se sei in Italia. Cioè il riconoscimento di aver fatto un anno o due anni in più di specializzazione è un riconoscimento che è tipico all'interno di contesti multinazionali o molto più all'estero di quanto non sia in Italia. Questa purtroppo è una verità scomoda, ma è una verità. Per quanto riguarda invece il convincere i genitori, quello che mi sentirei di dire è che in questo tipo di scelta probabilmente i genitori si riferiscono un po' a quella che è la loro esperienza, che difficilmente è applicabile a un'esperienza di un figlio, e quindi sono un pochino avversi al prendersi un rischio. Quindi piuttosto le suggerirei di sentire chi questo master l'ha fatto, magari abbastanza recentemente. Normalmente ci sono dei network di alumni che sono molto disponibili a condividere le loro impressioni con chi sta pensando di intraprendere questa strada, e possibilmente italiani, e quindi capire che tipo di riconoscimento hanno potuto avere anche loro e che valutazione fanno a posteriori dell'investimento che hanno fatto. È sempre utile infatti confrontarsi con chi questa esperienza l'ha fatta in precedenza. Allora noi salutiamo Roberta Marracino, che credo ci debba lasciare, giusto? Sì, giustissimo, ecco. Grazie. Allora, buona domenica. Noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo tra pochissimo con Fernando Napolitano. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno per l'ultima parte di Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di master. Sono utili, non sono utili, costano tanto? Lo chiedo proprio a Fernando Napolitano, che è presidente e CEO di questa società, che è molto vicina anche ai giovani, a quelli che hanno intenzione di fare startup negli Stati Uniti. Quanto costa un master oggi? Il master, innanzitutto ci sono due percorsi. Ci sono i master che vengono completati in un anno e i master, il master tradizionale è quello su due anni. In generale un master in una business school negli Stati Uniti, le cosiddette Ivy League, quindi nelle prime 10, da Stanford, MIT, Harvard, certo. Columbia, NYU, Wharton, Kellogg's, eccetera, costa intorno ai $50,000, a cui va aggiunto. Quindi l'investimento in un master di due anni supera i $100,000, includendo tutto il resto. Quindi è un investimento importante. Però, come dicevamo prima, va guardato innanzitutto nell'ottica del merito, cioè è un percorso professionale che nasce negli Stati Uniti, infatti si chiama Master in Business Administration, che è stato inventato perché era prevalentemente un popolo di ingegneri, perché il continente americano doveva costruire qualsiasi cosa di ordine e grado contro una natura ovviamente aggressiva e volumetrica, e aveva questa necessità straordinaria di poter coniugare un aspetto anche di affari. E da qui che nasce la business school. È utile per chi vuole fare l'impresa della sua vita, vuole essere un imprenditore, non un manager? La domanda gliela rigiro: se lei va da un dentista, preferisce avere un dentista che sia effettivamente diplomato e sia specializzato in odontoiatria, o se si accontenta di un paramedico? Ecco, la differenza. Beh, è questa, certo. Cioè avere un master significa non essere solo ingegnere o economista, ma significa avere una laurea nel business, che è fatto di pragmatismo estremo, è fatto di strategia, ma è fatto di numeri, di organizzazione, di tecnologie, eccetera. Quindi è una full immersion in quelle funzioni e problematiche che si affrontano in qualsiasi ordine e grado di azienda. Quindi per rispondere alla sua domanda, è sì, è ovvio che va visto in un lungo periodo. Se voglio fare una startup, probabilmente non lo faccio, oppure lo faccio dopo che ho completato il circo, perché c'è una dazione ambientale. Per esempio, i ragazzi che vanno a Stanford sulla West Coast, parecchi decidono di fare una startup. Come vanno questi ragazzi se non sono ricchi di famiglia? Se hanno talento ma non sono ricchi di famiglia? Devono fare un mutuo con una banca, ma non so se in questo momento tutte le banche finanziano un master, sia pure a persone che lo meriterebbero. Guardi, ci sono, diciamo, differenti fonti di finanziamento. Se questi ragazzi sono in aziende, tipicamente servizi professionali, di dimensione ovviamente multinazionale, fa parte del tracciato di carriera, quindi è un obbligo farlo, e ai migliori viene sponsorizzata la borsa di studio. Esistono anche borse di studio a cui uno può applicare, e poi se uno ha un'ammissione all'interno di una delle grandi scuole americane, io mi riferisco ovviamente all'America, esiste poi la stessa scuola che fa accedere a una serie di borse di studio piuttosto che facilitare un loan, quindi un prestito da un punto di vista diciamo delle aziende bancarie a questi ragazzi. Quindi l'obiettivo è poter entrare in una delle top school. Il brand di una delle top school apre una serie di opzioni che possono finanziare. Quello che io suggerisco sempre ai ragazzi è la sana politica del risparmio da subito, proprio perché l'esborso che ci sarà un esborso significativo, e alcune borse di studio sono anche parziali, non è che coprono solo costi in parte. Restiamo negli Stati Uniti e restiamo al tema di Ambra, che sembra intenzionata a mettersi in gioco per il suo futuro. Lei un lavoro ce l'ha. Certo, è un lavoro di una dimensione anche piccola e italiana. A questo punto, diciamo, della sua età, cioè 29 anni, non è troppo anziana per un master? Anziana tra virgolette, ovviamente. Ma lei sa che negli Stati Uniti esistono un po' di regole rispetto all'età, ma c'è una grandissima e sanissima regola della non discriminazione, in particolare per sesso, età, religione, eccetera. Quindi il fatto che lei abbia 29 anni è francamente irrilevante rispetto alla qualità del candidato. Le business school americane viaggiano sulla qualità del capitale umano come proprio merito nei confronti dei datori di lavoro, quindi è un circolo quasi perfettamente virtuoso. Quindi se una persona è brava e intelligente viene presa. Tenga presente che il master di 2 anni, che è l'altro grande vantaggio, al di là del fatto che entrerà in contatto e avrà relazioni con i futuri leader del mondo delle aziende, che è un grandissimo valore aggiunto, tra il primo e il secondo anno ci sono i famosi lavori di estate, i summer jobs, che vengono fatti dove uno può andare dalle grandi organizzazioni umanitarie, per esempio le Nazioni Unite, a tutte le aziende famose che conosciamo. Quindi c'è anche una esposizione per 8-9 settimane a questi datori di lavoro, quindi è un trampolino di lancio, o meglio una piattaforma di visibilità che altrimenti si perde. Tenga anche presente, per i nostri radioascoltatori, che forse può sembrare una banalità, ma il mondo è molto più grande dell'Italia. Quindi noi tendiamo a vedere il mondo con una visione italocentrica, andando in quel paese ci si rende conto che il mondo è fatto di 6 miliardi, di diversi mercati, di diverse aziende, di grande competitività e concorrenza, dove, le do un dato interessante, se lei va in tutte le Ivy School dove ci sono italiani, sono sempre nel top 20% di una classe. Cioè, questo ci conforta umano tantissimo. Lei, tra l'altro, di ragazzi negli Stati Uniti ne ha aiutati a andare tanto. Abbiamo solo 2 minuti, ci racconta in sintesi il progetto del quale lei si occupa da anni? Dunque, noi ci parliamo di un progetto molto semplice tra le altre cose, ma quello che più mi appassiona e cui sto dedicando è questa borsa di studio che si chiama BEST, che fornisce l'opportunità a ragazzi italiani sotto i 35 anni, da laurea breve a dottorando, con un'idea nell'alta tecnologia, di trascorrere 8 mesi nella Silicon Valley. Studiano 3 mesi imprenditorialità e 5 ne lavorano con una startup di Silicon Valley, e hanno un rientro obbligatorio in vista del visto che loro ottengono. Ne abbiamo mandati 77, il bando è partito, si trova su tutti i siti della Fulbright, perché è fatto in cooperazione con l'ambasciata Fulbright e Invitalia, ed è una grande occasione di cambiamento della vita dei ragazzi e quindi anche del paese. Abbiamo lanciato una campagna che si chiama Change Your Life, Change Italy, cambia la tua vita, cambia l'Italia, e questo credo che sia uno di quei programmi bilaterali di grandissimo successo dimostrato, ma che può veramente fornire ai ragazzi, e spero che vadano a vedere sul sito Fulbright o Invitalia questo concorso, perché può veramente cambiare la loro vita e aiutare a cambiare. Uno sente la parola tecnologia, ma non devono necessariamente essere degli esperti di tecnologia, devono avere delle idee che possano essere applicate alla tecnologia, no? È così. Esattamente. Quindi le ragazze, noi a Nessuna è Perfetta guardiamo con grande attenzione al mondo del lavoro femminile, le ragazze non si facciano intimidire dalla parola tecnologia, che c'è una cosa per nerd, una cosa per maschi. Le idee sono veramente senza barriere di sesso. Noi abbiamo dei 77 vincitori, il 40% sono ragazze, donne, quindi noi abbiamo una cosiddetta diversity di cui siamo molto fiere, e poi le ragazze, le donne, come si sa, apportano al business un senso di concretezza, di visione e di maturità che ai maschietti spesso difetta. Grazie Fernando Napolitano, in bocca al lupo per questa bella iniziativa per BEST, la borsa di studio per ragazzi laureati o laureandi che vanno nella Silicon Valley. Grazie a Napolitano, grazie a voi che ci avete seguito anche questa domenica. Relax, e ricordatevelo, il multitasking è una fregatura.